Tra poco Fergal con il suo soft side. Sento quello che avreste voluto ascoltare. No, guarda che è qui accanto Fergal, lo so, per arrabbiarsi, eh. Side, yeah. Tutto quello che avresti sempre voluto ascoltare. Vedi come gli riesce bene. Ha mangiato cipolla per caso. Salutiamo anche Robertino che è qua dalla parte tecnica e Pino Esposito che ci ha informato e continuerà a farlo tra pochissimo. Torniamo domani pomeriggio alle 4, mi raccomando. Ciao a tutti da Raul ed Alex. Ciao! Ciao. Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Southside. Southside. Hello everybody and you're very welcome to Southside. Questo mercoledì pomeriggio, poco dopo le 18. My name is Fergal Kavanagh, abbiamo Roberto Bottone ai controlli. Iniziamo con un bel remix di un pezzo del momento. Trace Young ha remixato Madonna. Southside. We'll let think I hate you. Isn't this fun? You're gonna shoot, and our darling loaded the gun. I think I'm done. What train did you step off of anyway? I really don't care. I'm the luckiest girl. Talking to you again, I'll go join the Marines, and then I will peacefully sail away with some safe magazine. Did you hear what I say? You can't fall down the stairs two times the same way, and I really don't care. I'm the luckiest girl. From the moon, sensibility tells me that this is too soon. Oh, my bones are bare. I'm the luckiest girl. I'm the luckiest girl in the world. Sono la ragazza più fortunata al mondo. E la puoi dire forte, Ambrosio Parsley, cantante di Chivalry, perché praticamente 12 mesi fa questo gruppo quasi quasi non esistevano. Sono da San Diego in California e hanno fatto proprio una bella carriera finora, e beati loro. Questo invece è il nuovo da Banks, con la voce bellissima di Zoe Johnson. Il titolo si chiama Swollen, e noi le suoniamo on Southside.

nome molto originale, il suo nome è Maria. Il pezzo, sentitelo. Why? Ma perché? Me le chiedo ogni tanto pure io. Comunque questo è disponibile anche in spagnolo, quindi se volete imparare un po' di spagnolo, comprate la versione spagnola di questo disco. Allora, you listen to Southside, saremo insieme fino alle ore 19 e David Byrne sta per fare un nuovo disco, anzi già fatto, uscirà il 4 maggio e lui è stato a Milano mercoledì scorso per presentarlo. Il disco si intitola Look Into the Eyeball e lui ha detto a proposito di questo che è il suo disco più romantico, che ogni giorno che passa si sente più a suo agio nelle sue pelle, perciò magari quando muore sarà la professione. Southside. Southside. Here we go. I blow it up, y'all. I blow it up. like cereal. Rich like a Happy Meal sensation. Psycho semi-automatic. Happy Meal gas stations. Olympia six-pack corrosion. A heart attack flashback dream. You got frozen wild fish in the tuna. You're sealing on ammonia with Mr. Clean. Got a funky haircut in the box. Shave it like Shadowbox hairdo. Soak you up with hash potatoes. Here go. Electric lamp boogaloo. Noi siamo qua fino alle ore 19 per farlo proprio scoppiare. The Edge Sings, 10 cents on Southside, Blow It Up Y'all. Allora la punta. Boom, boom, boom, selection. Can you feel the satisfaction? Boom, boom, boom, selection. This is a martini, that's production. Boom, boom, boom, selection. It's Kefron drinking upon the bubbly, not Bacardi, beer or brandy, quite frankly. This way be lively, face be won't see. But it's days for me, yes, you'll teach him a Capone family. Hone it down within this vicinity. All the men collaborating nicely. All the ladies at dinner and me. No worries, the boss, my jacket or car keys. Could this event be up to him alive? Killing me like the Fuji, soft me. I'm in paradise, I see pictures of palm trees. Security analyzing it wisely. Clearing all the people at the rowdy. While I check out the women with the beauty. That be Kefron on them duty. We said it's time for action. Boom, boom, boom, selection. From the crowd, the chemical reaction. Boom, boom, boom, selection. Can you feel the satisfaction? Boom, boom, boom, selection. This is a genius production. Boom, boom, boom. Study the sound physically and mentally. Genius, we ain't got the energy. Step in the ring, and we just want a body. We don't wanna hurt nobody. We got a style and we got the remedy. Listen to my flow and my rhyme and agility. This is the mic controller with ability. And the sounds what we call tranquility. I've been around, so you better get to know me. Dominate the microphone just like Boosty. Come follow me, can't beat me, join me. It's me, they call me MC Fizzy. We can't stop now, the crowd be crazy. All night long, we're gonna party. Look at my rollie, what's the time to leave? We said it's time for action. Boom, boom, boom, selection. From the crowd, the chemical reaction. Boom, boom, boom, selection. Can you feel the satisfaction? Boom, boom, boom, selection. This is a genius production. Boom, boom, boom, selection. I'm on a cruise for every Kathmandu. I'm on a move with my Maroon Space crew. I done a do to leave for my revenue. Revving cash flow, hook with the genius crew. Give me the bit, the I got the flavor. Hyping up on your hardcore raver. And I love the outrageous behavior. You're gonna shake it, what your mama gave you. Drink of the booze, making me feel the winning food. You ain't got a clue, I'm digging this track like fast food. So match at the high school. I'm having this every tune, causing women to be sporting it as I'm a cash dude. I am the one set the lyrical trend. I set the bass and the mix in the pen. I intend to defend the mic to the end. My friend, it's all about four regiments. We said it's time for action. Boom, boom, boom, selection. Boom, boom, boom, selection. That's Genius Crew, un brano che ormai c'ha un anno. Però se come gli è piaciuto così tanto a quelli che l'hanno ascoltato nel club, l'hanno fatto uscire ufficialmente. E Micra Glamour. Eccoci, stavo parlando un po' distratto sui Genius Crew, perché il fatto che sono stati un gruppo che hanno fatto uscire questo pezzo un annetto fa e non è stato un grande successo, però un produttore l'ha sentito e l'ha dato un uscito ufficiale, adesso un grande successo per loro. Allora andiamo avanti, è il segreto della nuova Nissan Micra e Micra Glamour è trendissima per quella piace ai giovani, è glamour deliziosa con gli interni eleganti in tinta con la carrozzeria ed oggi ancora più fresca grazie al climatizzatore incluso nei prezzi su tutta la gamma. Ma se il fresco non ti interessa e hai un usato da rottomare, reggiti forte e ascolta. Micra è tua da 16 milioni e 200 mila lira. Avete capito il segreto? No? Nuova Micra Glamour. Chiedete a chi una Micra ce l'ha già. Listen to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avresti voluto sempre ascoltare. They fall from your mouth, propelled by your bite and your tongue. I saw when you say, and I fall into time. I think I loved you more than me. Are you Gently sling

sono la boy band del momento e sono tutti nudi. I Velvet, come non li hai mai visti, li trovi solo su Kiss Me di aprile. Inoltre, le migliori tecniche di bacio e il test del sesso. Corri in edicola, Kiss Me ti aspetta. Puoi vincere anche i biglietti per il concerto di Dido. Kiss, Kiss. Come deve essere l'acqua che beviamo? Secondo me deve essere pura e leggera. Secondo me deve essere pura e controllata. Deve essere da bere, buona da bere. Nasce l'acqua Parmalat, l'acqua da bere. Pura e controllata perché microfiltrata. Acqua Parmalat, acqua da bere. Kiss, Kiss. Gli uomini italiani si leccano le dita, pagina dopo pagina dopo pagina. Leggono Men's Health. E nel numero di maggio scoprono il menù che ti fa essere super a letto, un test da un minuto per migliorare la salute, i surgelati, veloci, pratici e fanno dimagrire. Il programma fitness per la pausa pranzo. Men's Health, il piacere di essere uomo, è in edicola. Here we are again. Questo pezzo si intitola Like a Feather, come una piuma. Amat Nika Costa, e Nika, come sapete, è la figlia del grande Don Costa. E insomma, questo non è il suo primo singolo, ha fatto tanti con Don Costa, però pure On My Own è stato un grande successo per lei negli ultimi tempi. Allora adesso un gruppo con il nome Turin Breaks, e sembrerebbero che siano italiani, però no, sono britannici, e sono due ragazzi che si sono incontrati alle scuole elementari. Questi sono Turin Breaks with the Door. So take the fast road and get going now. Time in this place was closer than my friends. remember my eyes, not my face. Innocence has no sense, it invents another man unfolds. Well, I'm standing next to myself, the sink, staring into the black hole. I panic at the quiet times, decisions at the door. At the quiet times, fate leads me to much more. On the inside it hurts less, the outside seems so cold. I need to climb, I gotta find some tenderness before I get too old. Sun comes from behind and hurts my eyes. It dries my hair so nice. I watch the boiling sea meet the open sky, but my soul still feels like it's ice. I panic at the quiet times, decisions at the door. Panic at the quiet times, fate leads me to much more. That's the sound that I check on the mic. I tell you about Bell Hill, it's the living underground. CK, we come to kick down. Nice, easy and tight. That's the sound that I check on the mic. That's right. Oh no, jazz, trash, Seagull says what the river can do. Give me the good time, Latino crew. For the bum, for the flex, and now we break through. Adios, amigo. Hola, senorita. Me and my DJ, we're live in another area. So when you wine and dine, I take a little time to rock line. Roll with the sound. Roll with the sound. Time to break quiet and roll with the sound. Adios, amigo. Hola, señorita. Adios, amigo. Hola, señorita. Uno, dos, tres, cinco, says what the river can do. Give me the good time, Latino crew. For the bump, for the flex, and now we break you. Adios, amigo. Hola, señorita. Me and my DJ, we're loving at the area. So we wine and dine. Take a little time to break quiet and roll with the style. People, are you really sure? Are you really ready? If you bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi living underground, CK. We come to kick out, nice, easy and tight. That's the style that I check for the mic. I tell about L Hill, it's the living underground, CK. We come to kick out, nice, easy and tight. That's the style that I check for the mic. That's right, oh no, that's dress. Seagull says what the river can do. Give me the good time, Latino crew. With the bump for the flex, and now we break show. Adios amigo, hola, senorita. Me and my DJ, we're living out the area. So when you wine and die, I stick a little fancy rock line and roll with the style. Plan plane, DJ Lock with Sunita Gain. Tell about Steve Plan plane, DJ Lock with Sunita Gain. Blow your ring, top blow your ring. Hello, dust, dress, Cinco says what the river can do. Give it a good time, Latino crew. For the bump, for the flex, and now we break you. Adios, amigo. Hola, senorita. Me and my DJ, we're living at the area. So when you wine and dine, take a little time to break wine. Roll with the style. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. People, are you really sure? Are you really ready? Hip for a bitty bitty bitty bitty bitty low. DJ Lock inside the middle, yo. Hip for a bitty bitty bitty bitty bitty bitty. People, are you really sure? Are you really ready? Hip for a bitty bitty bitty bitty bitty low. I'm sitting here to talk to you. Roll with the sound. Adios, amigo. Hola, señorita. Adios, amigo. Hola, señorita. You heard DJ Luck and MC Neat with Piano Loco, bellissimo, e questi sono i Daft Punk che voglio salutare a Vale. Sorry Vale che non possiamo accontentarti al momento, però goditi questo. Dancing all night long. The time is right to put my Southside ci piace proprio questo pezzo, se è in titolo Digital Love, cioè l'amore digitale, allora sono i Daft Punk, viene dall'album Discovery e pensate un po', anche se è uscito da solo 3 settimane più o meno, in Francia ha già venduto 300.000 copie e in tutto il mondo 2 milioni di copie, that's incredible! E questo pezzo praticamente inizia un po' come i vecchi Buggles e poi viene tutto elettronico eccetera, we like it, don't we Roberto? Roberto ci piace? Roberto non parli inglese. Comunque grazie a Roberto Bottone per la regia questa sera. This is Fergal Kavna, grazie a voi ascoltatori. Appuntamento domani alle 18. Southside. Southside. Per un'ora Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, ancora un appuntamento con le news.